Nel nostro percorso di scoperta della storia cancellata come scuola delle donne, ci siamo imbattute in quella parte della storia del Risorgimento italiano che ha visto schieramenti opposti combattersi per gli stessi fini, in una lotta manovrata volutamente da poteri forti e occulti. In particolare, vogliamo inquadrare il cosiddetto fenomeno del brigantaggio in una visione più ampia e, come sempre, dal punto di vista delle donne che si ribellarono all'invasione sabauda. Finora abbiamo studiato alcune matriote garibaldine che si immolarono alla causa corpo e anima, perché convinte che l'unità d'Italia, scacciando i Borboni, avrebbe restituito al Sud la ricchezza e la dignità che la dominazione borbonica le aveva sottratto. Pensiamo a Cristina Trivulzio di Belgioioso, che finanziò di tasca sua le spedizioni contro gli austriaci, o Enrichetta Caracciolo di Forino, che tra le mura della clausura imposta divenne una militante garibaldina rischiando l'arresto, poiché era costantemente spiata dalla polizia borbonica. Con questo documento vogliamo dare voce anche all'altra parte, quella delle eroiche donne briganti, che defraudate di ogni diritto da quella stessa Italia sabauda che aveva promesso la libertà, furono costrette a darsi alla macchia, scappando sui monti e nei boschi per difendere la loro terra e la loro vita, e vivendo sulla propria pelle tutta la violenza, i ricatti e le barbarie dell'invasione sabauda. Entrambe le parti furono ingannate e dimenticate dalla storia dei vincitori. Partiamo dalle parole, spesso foriere di indizi utili e preziosi. Infatti, chiamare il brigantaggio un fenomeno sembra già denotare il fatto che sia spuntato dal nulla, per ragioni ignote o ingiustificabili, quando in realtà la povertà e il malcontento delle popolazioni rurali del Sud Italia, già ai limiti sotto i Borboni del Regno delle Due Sicilie, non solo divennero ingestibili con la conquista del Mezzogiorno da parte di Garibaldi e l'annessione al Regno di Sardegna e dei Savoia, ma si trasformarono in una guerra civile durata decenni dopo la dichiarazione dell'Unità d'Italia del 1861. La narrazione dell'eroe dei due mondi che ancora oggi si studia a scuola perde ogni credibilità davanti alle testimonianze di vita di queste donne briganti che hanno imbracciato le armi e sono fuggite nei boschi per difendere la propria libertà e il proprio territorio. Anche il termine brigante è fuorviante. I francesi lo utilizzarono per primi già alla fine del XVIII secolo nei confronti dei contadini del meridione che si opponevano alla dittatura napoleonica, trasformandoli in delinquenti. Ancora oggi si usa per identificare la rivolta di bande armate del Meridione a partire dalla proclamazione del Regno d'Italia di Vittorio Emanuele II, accorpando la vetusta questione dei gruppi criminali locali alle lotte di resistenza contro i soprusi del nuovo governo di Cavour, di fatto riducendo queste ultime a mera delinquenza mal organizzata e da sopprimere. L'origine di questa parola è celtica e significa altitudine e elevazione. Termini che ci riportano alle montagne italiane e alle comunità montane di stampo matrifocale studiate da Michela Zucca, le quali, come approfondiremo tra poco, mantennero le loro tradizioni più a lungo, proprio in virtù della loro posizione marginale ed elevata, lontana dagli influssi della cristianizzazione e della cosiddetta civilizzazione. Inoltre, i Brigantes erano una tribù della Britannia preromana, devota a Brigid, la celeberrima dea della magia, della natura, della guarigione e del fuoco alchemico. Iniziarono i romani durante l'invasione del Nord Europa a dare una connotazione negativa a questa parola, ma allo stesso tempo inglobarono il culto di Brigid in quello di Santa Brigida, come Devana ha sottolineato nel libro Antenate, la visione delle donne, di cui vi lasciamo il link in descrizione. Invece, alle donne briganti del meridione d'Italia furono dati diversi appellativi. Druda, Ganza, Manutengola sono quelli dispregiativi che troviamo nei verbali piemontesi. Ma in generale, ancora oggi, si utilizza il termine brigantessa per indicare le donne che si unirono alle bande per combattere, distinguendole dalle donne dei briganti, ovvero coloro che seguirono i propri uomini senza combattere attivamente, o che venivano rapite e costrette a servire il capobanda. È facile incappare in articoli in cui le brigantesse vengono descritte come donne avventuriere e lascive che si arruolarono per seguire romanticamente il loro amato e che usavano sfoggiare su di sé con vanità i gioielli rubati nelle scorrerie, come se amare ed esibire i propri trofei fossero solo una prerogativa delle donne. Questo tipo di narrazione sembra sminuire il ruolo centrale che anche le donne hanno rappresentato, cancellando la loro vocazione alla causa e il sentimento di disperazione e di rivalsa che dilaniava e divideva intere comunità. Noi abbiamo scelto di usare la parola brigante con l'articolo femminile, perché consapevoli che nella grammatica italiana il suffisso essa, aggiunto per trasformare un termine maschile in femminile, aveva in origine una intenzione dispreciativa e sessista. Già 20 anni prima dell'unità, Cristina Trivulzio di Belgioioso nutriva non pochi sospetti sul governo del Regno di Sardegna nei confronti dei moti rivoluzionari di Milano e di Venezia, come rimarcò nel suo libro 1848 a Milano e Venezia, in audiolettura sul nostro canale. Vi lasciamo il link in descrizione. La sua visione di una matria unita e solidale da nord a sud fu quella di tante e tanti che accorsero dal nord da diverse città della penisola come Napoli e Palermo per sostenere la liberazione dal dominio austriaco, spesso anche con mezzi e soldi propri. Ma Cristina non si lasciò accecare dalle idee illuministe e con una visione lucida e attenta descrisse il tradimento dei Savoia che già in quell'occasione si schierarono con gli austriaci, negando l'appoggio alla popolazione che era in rivolta nelle due città per rivendicare l'autonomia sotto un'unica bandiera, proprio quella savoiarda. Il Regno di Sardegna era uno stato poco influente e in forte debito, alleato per interesse con le grandi potenze europee, Inghilterra e Francia, le quali erano molto attente alle questioni della penisola perché direttamente coinvolte nella gestione del commercio di importanti manufatti come il cotone, la carta e i prodotti alimentari. L'Italia ha sempre avuto una conformazione territoriale ottimale e una posizione strategica ineguagliabile, tant'è che il Regno delle Due Sicilie seguiva al terzo posto le due potenze sia per ricchezza e attività culturali che per il prestigio delle prime industrie siderurgiche e minerarie e il pregio delle flotte mercantili e militari. Sotto questa luce più ampia si disegnano delle dinamiche geopolitiche ben lontane dai valori illuministi di uguaglianza, fraternità e libertà, ideologie che sono state tanto utili per la creazione del concetto di nazione e per l'avanzata irrefrenabile dell'industrializzazione. Come spesso accaduto nella storia, all'opulenza delle classi dominanti non corrispondeva quella del popolo. Tuttavia, nonostante le difficoltà, la gente italica sapeva come attingere alle risorse del suo ricco territorio senza alterarne gli equilibri. Ben prima dell'unità, il malcontento delle classi disagiate si riversava sui feudatari locali e sulla borghesia, le quali, accecate dalla smania di arricchirsi con ogni mezzo, si litigavano il controllo delle terre comuni, spesso unico spiraglio di sopravvivenza per le classi contadine. Rosa Luxemburg, nel secolo successivo, mise in luce proprio questo meccanismo perverso di accumulazione del capitale e di abuso di potere, il quale, da sempre, ha inizio proprio dall'usurpazione delle terre. Se nelle città l'appoggio alle nuove ideologie unitarie fece presa sullo spirito di libertà di nobili e intellettuali, per assicurarsi il sostegno delle classi più basse e decentrate, furono promesse giustizia, privilegi, ricchezze, tra le quali anche la ridistribuzione della terra. Ma il clima di novità e di speranza fu tragicamente frantumato dalla repressione e dagli eccidi delle truppe garibaldine, che instaurarono una vera e propria dittatura sotto il governo provvisorio di Garibaldi. Con l'appoggio e il consiglio di Vittorio Emanuele II vennero aumentate le tasse e ne vennero istituite di nuove, tra cui quella sul macinato, e le terre vennero vendute ai vecchi feudatari locali collusi con il nuovo regime. Scoppiarono rivolte in tutto il meridione, a partire dall'Abruzzo fino alla Sicilia, soppresse con la violenza e il terrore, come dimostrano le stragi di Isernia, Bronte, Ponte Landolfi, Casalduni e Cerreto Sannita, tanto per citarne un piccolo numero. Impiccagioni, fucilazioni, stupri, roghi, mutilazioni, evirazioni e umiliazioni di ogni genere. Questo fu l'inizio del neonato Regno d'Italia, concepito fin dal principio come una piemontizzazione dei nuovi territori. Come raccontato nel film storico di Pasquale Squitieri del 1999 intitolato «Li chiamarono briganti», i volontari dell'esercito che tornarono al loro paese convinti di ricevere le ricompense e le riconoscenze del merito militare si trovarono ostacolati dalla nuova legge proclamata dai vecchi amministratori che si erano già inginocchiati davanti alla nuova bandiera per mantenere i propri privilegi e prosciugare le poche ricchezze rimaste sul territorio. I poteri locali corrotti si allearono così con i nuovi conquistatori che lasciarono il via libera all'esproprio delle terre, ai furti e all'ingiustizia per fomentare la divisione tra le genti e controllare più facilmente il nuovo Stato, seguendo l'antico divide et impera romano. Per molte e molti l'unica alternativa al sopruso fu darsi alla macchia e organizzare bande armate di resistenza, inizialmente appoggiate sia dalla Chiesa che da un tentativo dei Borboni di riprendere il potere. A queste bande non si unirono solo criminali assassini, ma soprattutto contadini, contadine, pastori, carbonai ed ex ufficiali e soldati sia dell'esercito garibaldino che di quello borbonico, in grado di formare alla guerriglia la popolazione delle campagne e delle montagne. Moltissime furono le donne che aderirono alla rivolta. Inizialmente questi gruppi riuscirono a cacciare i neoregnanti e istituire piccoli governi locali autonomi in nome del ritorno dei Borboni. Alcuni gruppi armati furono dei veri e propri eserciti indipendenti, che compivano azioni mirate ad indebolire il nuovo potere dei Savoia. Altri univano la notte agli invasori, alle scorrerie e ai sequestri di persona, perpetuando le antiche lotte tra famiglie. Fu l'inizio di una vera e propria guerra civile che durò decenni e che divise il meridione in fazioni locali sempre più povere e in antagonismo. Ma il nuovo re d'Italia non stette a guardare. E con il varo della legge Pica del 1863, in nome dell'ideatore di origine abruzzese, iniziò il rastrellamento di briganti resistenti con ogni mezzo e senza alcun freno. Vennero approvate norme rigidissime, che soprattutto nelle aree rurali limitavano lo svolgimento delle attività quotidiane legate alla sussistenza, e vennero imposte ingenti tasse con il pretesto di risarcimento delle spese di guerra. Bastava avere un'arma, spesso utilizzata per la caccia o per difesa da chi viveva costantemente all'aperto, per essere considerati briganti ed essere uccisi seduta stante, senza prove, indizi o processi. Ancora fucilazioni di massa, torture e ricatti. Brigantaggio fu il nome dato allo sterminio, stimato ufficialmente in circa 1 milione di morti. Coloro che non venivano uccisi erano deportati nei campi di concentramento del nord, il più famoso dei quali è il Forte di Fenestrelle, situato sulle Alpi Cozie sopra Torino, ad una quota di oltre 1200 metri, dove prigionieri e prigioniere venivano lasciate morire di freddo e poi fatte sparire nella calce viva. Tra di loro molti erano ex soldati dell'esercito borbonico e pontificio, che non si erano voluti schierare tra le file del nuovo esercito italiano. Dalla guerra di conquista si era passati alla guerra civile, sfociata in uno sterminio ed eccidio di una parte della popolazione. Per evitare l'affollamento nelle carceri, le rivolte locali e lo sdegno all'estero, il Parlamento discusse persino la possibilità di trovare una regione desolata in altri continenti dove deportare i prigionieri. Le donne briganti. Le montagne e le foreste, silenziose protagoniste della nostra penisola, sono da sempre considerate luoghi marginali dove individui di ogni sorta trovarono rifugio dal crescente sfruttamento del lavoro umano, in nome della crescita urbana e industriale, e dove le tradizioni legate alla natura rimasero più a lungo, a volte fino ai giorni nostri. Come riporta Michela Zucca, in queste comunità la donna originariamente aveva un ruolo centrale sia nell'organizzazione della famiglia e nella gestione delle risorse, che nella celebrazione del sacro, attraverso riti, preghiere e guarigioni. Nel tempo questo ruolo centrale venne lentamente ma inesorabilmente falsato, denigrato e cancellato attraverso la modifica patriarcale delle relazioni sociali e del rapporto tra i sessi. Ma la donna non smise mai di portarlo avanti, perché consapevole di mantenere i fili di un ordine cosmico che lega l'essere umano alla natura e all'universo. Infatti, il termine bandito ha in sé l'accezione di chi è allontanato dalla comunità di appartenenza, e questa era una vera e propria condanna nelle società tradizionali, che, estranee al concetto di reclusione, isolavano e rifiutavano chi arrecava danno, seguendo leggi ancestrali mai codificate ma fortemente sentite. Senza il sostegno e la solidarietà della cerca familiare che permetteva di vivere onestamente dando e ricevendo assistenza, si entrava a far parte delle comunità marginali dei boschi, sopravvivendo soprattutto con furti e rapine. Per le donne questa condanna era ancora più grave perché, anche quando innocenti, la loro cacciata significava quasi sicuramente doversi prostituire per sopravvivere. Ma la punizione era decisa dalla comunità e non dalle leggi temporali, le quali erano calibrate sugli interessi delle classi più alte e sulle necessità dei centri urbani, subendo modifiche a seconda del regnante di turno. Era comune perciò aiutare di nascosto le bande di fuorilegge che sfuggivano all'ordine costituito. Questo tipo di protesta è una costante nella storia dei popoli, quella mai raccontata, ed è stata instancabilmente sostenuta soprattutto dalle donne, in virtù del loro ruolo di guardiane della memoria collettiva, protettrici dei beni comuni e custodi delle tradizioni arcaiche. Le storie che ora andiamo brevemente a raccontare sono quelle di alcune delle tante donne briganti, che aiutavano consorti, parenti e familiari e combattevano attivamente. Nel racconto delle loro vite si sprigiona la forza di chi si ribella per rivendicare la libertà e per provare a ricucire un ordine atavico lacerato da secoli, ribaltando il ruolo di sottomissione sociale e sessuale imposto dalla società. Infatti, per molte, diventare briganti significava emanciparsi dalla condizione di povertà e di sottomissione al capofamiglia, scegliendo il proprio uomo e vivendo libere di muoversi nei boschi, in una comunità non riconosciuta dalla legge e al di fuori delle regole sociali pressanti e rigide nei confronti delle donne. Ciò nonostante, il contesto del brigantaggio rimase comunque fortemente androcentrico. La logica della guerra diventò quella della vita quotidiana e in nome della libertà dal dolore e dalla miseria, le briganti erano pronte a tutto, anche a commettere atti spietati e violenti, avallando e assumendo ogni sfumatura del comportamento tipicamente maschile o rimanendo invischiate per gelosie e rancori nel copione patriarcale del conflitto tra le donne. Ci si avvicinava alla latitanza portando di nascosto notizie e vettovaglie, per poi arrivare a farne pienamente parte svolgendo tutti i compiti come ogni membro della banda. Fuori dai canoni della morale ottocentesca, le donne briganti cavalcavano, usavano le armi, combattevano, si travestivano da uomini per comodità e mimetismo, facevano le spie, minacciavano chi ostacolava il loro operato, partecipavano e a volte dirigevano le operazioni di guerriglia, mantenevano i contatti con personaggi influenti e portavano messaggi viaggiando di notte attraverso i boschi, assicurandosi il rispetto e a volte il timore della propria banda, che diventava una nuova famiglia. Coscienti che la vita media da brigante era molto breve e assai pericolosa, alcune si avvicinavano alla latitanza per sottrarsi alle pesanti ritorsioni dei gendarmi contro i parenti dei prigionieri, come nel caso di Maria Maddalena De Lellis, di San Gregorio Matese, nel Casertano, che si arruolò nella banda di un ex soldato borbonico mentre il marito era in carcere per brigantaggio. Per indurla a costituirsi alle autorità, tutti i suoi parenti furono incarcerati, ma lei non cedette e divenne l'amante del capobanda. Ferita negli scontri con la Guardia Nazionale, fu catturata e scontò 25 anni di lavori forzati, dopo dei quali trascorse la sua vita fino a 72 anni, accudendo bambini e bambine del suo paese, mentre i loro genitori lavoravano nei campi. Alcune donne, invece, seguivano il marito, il fidanzato o l'amato, combattendo l'una a fianco all'altro, come fu per Arcangela Cotugno di Montescaglioso, nel Matese, e Maria Capitanio di San Vittore, nella provincia di Frosinone. Arcangela fondò una banda con il marito, un ex garibaldino al quale non furono date le terre promesse per il merito militare. Si costituì dopo la morte del consorte e venne condannata a 20 anni di prigione. Invece Maria, figlia di un ricco proprietario terriero, appena 15enne si innamorò del brigante Agostino Luongo e lo seguì nella latitanza. In uno scontro con l'esercito, il compagno fu ucciso e lei fu catturata, ma prosciolta grazie all'intervento paterno. Per il dolore della perdita del suo amato e per l'angoscia di dover tornare agli obblighi sociali, Maria preferì suicidarsi, ingoiando frammenti di vetro. C'era anche chi si arruolava per prendersi cura dei propri figli datesi alla macchia, diventando a tutti gli effetti madre di tutta la banda. Come fu per Luigia Cannalonga, contadina di Serre, nel Salernitano, che instillò nei suoi figli il suo rancore per le malefatte del nuovo regno, tanto che uno di loro fondò una banda. Fu condannata al domicilio coatto sull'isola del Giglio perché sospettata di favoreggiamento al brigantaggio. Dopo la morte del figlio fu liberata e vagò per i boschi di Persano alla ricerca della nuora, Francesca Cerniello, che, incinta, era rimasta a capo della banda. Tornate al paese con la piccola nata, Francesca si costituì e scontò 15 anni di lavori forzati. Altre donne, rimaste vedove o orfane, divennero briganti per vendetta, rancore e orgoglio, come successe a Michelina De Cesare di Caspoli, in provincia di Caserta, la quale, vedova a soli 20 anni, entrò a far parte della banda di Francesco Guerra, di cui divenne consigliera e amante. Ma fu tradita dal fratello e uccisa dalla Guardia Nazionale, che ne mutilò il corpo e lo espose nella piazza centrale di Mignano. Non tutte diventavano briganti per scelta o appoggiavano la guerriglia. Molte venivano rapite e usate come schiave dal capobanda. Essere disonorate significava, di fatto, essere bandite dalla comunità di appartenenza, avere un marchio indelebile per il resto della vita, rimanendo nubili e povere. Per evitare lo stigma e per la scoperta di una nuova libertà, Alcune preferirono restare nei boschi, come Carolina Casale di Cervinara, nella provincia di Avellino, che fu strappata alla famiglia da un brigante. Rimasta incinta, si arruolò insieme al suo rapitore in un'altra banda, ma fu catturata e condannata a 15 anni di reclusione. Una sorte assai più drammatica fu quella di Filomena Ciccaglione di Riccia a Campobasso, alla quale fu ucciso il padre e, presa sotto sequestro, fu confinata in una grotta dove meditò la vendetta contro il suo aguzzino. Dopo la cattura del capobanda, Filomena fu liberata e tornò al paese, ma in poco tempo si ammalò e lasciò il corpo a 22 anni per la tisi. Un'altra molisana, Maria Giantommaso di Rotello, fu rapita nel 1863 dopo una giornata di lavoro nei campi. Durante 17 giorni di prigionia salvò la vita ad un sacerdote, ostaggio della banda, supplicando il suo rapitore di risparmiarlo. Riuscì a fuggire nel caos dell'incursione dei carabinieri regi e tornò al suo paese grazie all'aiuto di un contadino. Il sentimento di lotta per la giustizia e per la libertà fu vissuto con la stessa intensità e autenticità anche dalle donne che sostennero l'altra parte, ossia l'avanzata garibaldina. Basti pensare all'audacia e alla dedizione di Anita Garibaldi nei confronti degli ideali rivoluzionari, che la spinsero non solo a partecipare alle sommosse popolari nel suo paese di nascita, il Brasile, ma anche a sposare la causa italiana, affiancando il marito in combattimento. Insomma, che fossero briganti o militanti risorgimentali, per tutte queste donne la lotta per la liberazione dal proprio territorio incarnava allo stesso tempo una lotta per la propria liberazione dalla condizione di sottomesse. Immedesimate nelle sorti della matria, lo slancio e il coraggio delle loro gesta rivela la speranza di rivalsa per se stesse, proprio in quanto donne in una società costruita su un modello maschile. Queste testimonianze ci confermano ancora una volta il legame ancestrale e indissolubile tra la terra e la donna, ed è per questo che le loro azioni, al di là di quale fazione sostenessero, sono le stesse. E ancora una volta concludiamo con le parole di Virginia Woolf, nostra maestra e madrina. Cosa succederebbe se Chloe volesse bene a Olivia?